strada. Sappiamo anche il perché, perché sei uno che è rimasto sul pezzo anche per il Cox e sei andato a quello che la tua professione richiama, ovvero alle biennali che inauguravano questa settimana. Cavoli, che inaugurano e inaugureranno, perché quella di Monza inaugura domani. Ma tu l'hai già vista in anteprima. Ah sì, certo, sono andato in anteprima, è bella. Che stai facendo adesso che non mi guardi negli occhioni? Te la consiglio. Ti stavo taggando nella foto di Instagram. Ma certo. sei troppo congruente, Pasquini. Ah, cavoli, abbiamo la Cristiana Boy che ha commentato, bello, ha scritto. Bello, non la, ciao bello. Cristiana, non ti vedo da un miliardo di anni. Io non t'ho vista mai, ma ti saluto anch'io. Bella anche lei. E tu sei bellissimo dopo tutto questo tempo che non ti vedo. Sono un po' abbronzato, non ho capito bene come, visto che ha piovuto dovunque. Sì, te la sei presa dappertutto. Fossi, esatto, oggi mi sono beccato anche a arrivato la a grandine, Modena, la grandine, bravo, fantastico. Bravo, hai fatto il veramente. Pienone, un po' di arcobaleni? Un po' di arcobaleni no, però me ne ha spedito uno Cinzia Cheng dalla Cina, ma loro non hanno degli arcobaleni, hanno dei cerchi arcobalinici sulle nuvole, mi ha mandato un video che però non sono ancora riuscito a vedere, ma dalle foto sembra perché sono più vicini alle 4 ore, più dall'altra parte. Più vicini alle 4 ore, non c'entra. Forse era un effetto della biennale lì. Della biennale di Guangzhou, forse era una bufala. Ah, può darsi che sia fatta in 3D e lei fa finta sì, di ma a proposito di biennale, ecco, diciamo sì, bene appunto. Che cosa è successo per la, che cosa ha di speciale questo coxo, che è un coxo specialissimo, un coxo speciale biennale, è un coxo specialissimo, perché per chi ci ascolta da 4 anni sarà la prima volta che ci ascolterà parlare puntualmente di qualcosa di importante che accade nel mondo dell'arte. Esatto, cioè no, non è la prima volta, è la seconda. Come, la prima quando è stata? No, io ho fatto almeno due, anzi questo mi sa che è il terzo speciale biennale che faccio di coxo, giusto che tu... Sì, ma non l'avevi mai messo proprio in concomitanza con l'inaugurazione, perché la biennale apre domani, perciò bravo e viva il coxo! Ah, certo, mi dimentico del pubblico, perché in realtà per quel che mi riguarda la biennale di Venezia sì, ha aperto per 4 anni abbiamo sempre fatto che, ok, c'era l'inaugurazione, però noi arrivavamo una settimana dopo, invece... Certo, hai ragione. Questo quindi, giro sia stato forza Cox, stati viva il 182. Ascoltiamo, speriamo che sia così anche per quella dell'arte, sì. Cioè del teatro, che dovrei andarci io. Ah, certo mi, che mi aiuti con le tue voci. Sì. Uomo biennale. Ormai sono un biennalista professionista. L'anno prossimo, però, se starò domani ci vado io la prossima volta. E allora andiamo con il primo contributo registrato dal redattore Stefano W. Pasquini per noi a Venezia. Ed eccoci qua alla Biennale di Venezia, all'ingresso dell'Arsenale. Comincia subito con una serie di video. La mostra si chiama Viva Arte Viva, un titolo abbastanza particolare, e dice: inaugurando il percorso dell'Arsenale, il padiglione dello spazio comune riunisce artisti le cui opere si interrogano sul concetto del collettivo, sul modo di costruire una comunità che va oltre l'individualismo e gli interessi specifici, particolarmente presenti in un'epoca di inquietudine e di indifferenza. E la mostra comincia con queste strutture colorate di Rashid Arin, nato in Pakistan nel 1935, un'installazione che si chiama Zeros to Infinity in Venice, di legno dipinto, e dove questi quadrati colorati possono essere spostati. Infatti abbiamo dei bambini che si stanno divertendo con questa cosa. Viva arte viva, viva arte viva. Non lo so, adesso andiamo a vedere, poi vi dirò che cosa ne penso. Posso prendermi l'altro dell'altro, da dentro e fuori. Siamo nel padiglione dell'Irlanda, molto buio, con questa proiezione di un corpo probabilmente deceduto, e devo dire che c'è molta spettacolarizzazione in questa biennale. Ho appena passato una sorta di mano enorme, ecco, adesso ci stanno chiudendo dentro con un velo nero, un po' spaventosa anche questa cosa. Ah, ecco, adesso ci lasciano uscire, questo mi fa abbastanza piacere. No, dicevo, c'è molta spettacolarizzazione. Sono entrato dentro a una mano di cartapesta che mi sembrava essere la Disneyland, infatti l'ho postato su Instagram chiedendo al mio amico Pedro Vélez, che purtroppo non è qui con me, un artista molto critico del sistema dell'arte, e gli ho chiesto: is this fucking Disneyland or is it the Venice Biennale? Mentre invece qui nel padiglione irlandese l'installazione Tremble Tremble di Jesse Jones sembrava degna di essere vista come si deve. Purtroppo il mio tempo stringe, devo scappare e mi appresto a vedere il padiglione Italia. Eccoci qua, mi hanno parlato benissimo del padiglione Italia, ancora non l'ho visto, sono appena entrato, la curatrice è Cecilia Lemani, gli artisti sono Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Hasnib-Bey. Questo rumore che sentite di sottofondo è una performance che sta succedendo ed è un lavoro di Roberto Cuoghi intitolato Imitazione di Cristo. Progetto di Roberto Cuoghi continua una poetica complessa che indaga le proprietà trasformative dei materiali e la fluidità di qualsiasi definizione di identità. In realtà quello che sta succedendo è un'officina predisposta per la realizzazione integrale di sculture, dal collaggio di materiale organico in un unico stampo fino alla fase di consolidamento, e non si esaurisce con l'apertura della mostra e perdura secondo una logica di decomposizione e composizione, morte e rigenerazione. L'intero processo è concepito per non ottenere mai lo stesso risultato, producendo una dissociazione che sembra riguardare il nostro presente. Praticamente quello che succede è che viene fatto un calco nella forma di Cristo di persone che dopodiché loro, questo rumore che sentite sono dei lavoratori che stanno fissando un calco per una fusione di bronzo, presumo. Ah no, o cera persa, sì, ecco. E infatti dopodiché c'è una struttura che sembra di essere dentro a Spazio 1999 con varie figure di Cristo in cera o in bronzo, anzi in cera presumo, alcune sono in gesso. È abbastanza inquietante, sembra di essere in una l'atmosfera è quella del video di Roswell, non so se l'avete presente, e la struttura sembra di essere dentro a Spazio 1999 e direi che, e mi hanno detto che questa mostra era fantastica e presumo si riferissero soprattutto al lavoro di Roberto Cuoghi. Adesso sono curioso di vedere anche il lavoro degli altri due, ma effettivamente l'installazione è veramente notevole anche a livello di struttura economica e quant'altro. Il rumore di fondo che sentite in questo momento invece è quella di un frigorifero, presumo, o qualcosa del genere, dove dentro troviamo delle teste a forma di, cioè, che somigliano a un Cristo morente, fatte con materiale organico, presumo. Vi invito a venirla a vedere perché effettivamente è un'esperienza abbastanza particolare vedere tutti questi calchi che ricordano appunto dei Cristi morenti, che però diventano un po' dei appunto degli extraterrestri. Alcuni sono un po' deformi, altri sono fatti di materiale organico che si sta decomponendo, anche se devo dire che non c'è alcun odore sgradevole, malgrado le apparenze. Altri sembrano quasi di pelle che si sta seccando. Abbastanza inquietante tutto quanto. Ma no, invece sei stato bravissimo, Stefano. Ma finisce così? Finisce così. Sei sicura? Sì. Mi fido? Sì. Va bene. Sì, è già scattato nel secondo contributo che però noi ascoltiamo dopo. Fantastico. Sì, mi dimentico di darti il silenzio, perché sai che il silenzio è molto utile. No, a me non serve ormai, sai com'è. Più che altro volevo chiederti, perché questa stimolantissima tua visita, tu sei stato solo all'Arsenale in questo contesto, no? Nella prima clip ero solo all'Arsenale. Però mi ha fatto scaturire in testa delle curiosità rispetto a come si organizzano queste manifestazioni internazionali, no? Perché effettivamente ci sono, Venezia si trasforma in quei giorni, no? Ci sono queste due grandi strutture di riferimento che sono l'Arsenale e i Giardini, sì, che si chiama appunto Giardini della Biennale, non a caso. Sono stati costruiti apposta. Appunto. E poi invece lungo tutta la città ci sono anche un sacco di altre location dove ci sono artisti e gallerie di altre nazioni e poi anche le gallerie private. Vorrei che mi facessi un po' un panorama di quello che a livello di gestione, anche di rapporti tra privato, pubblico, si creano attorno a questa Biennale. Ad esempio, ai Giardini, ai Giardini so che ogni padiglione è dedicato ad una nazione. Esatto, parte il padiglione ex Padiglione Italia che si chiama Padiglione Biennale. Infatti è una collettiva, anche lì chi la cura? Perché ecco, quella la cura il curatore della Biennale. Il curatore della Biennale cura l'ex Padiglione Italia, che appunto adesso penso che si chiami il Padiglione dei Giardini o Padiglione Biennale, e tutto l'Arsenale. No, quasi tutto l'Arsenale. E fondamentalmente dà un titolo e un tema a tutta la Biennale. E quindi anche quelli nelle casette dei Giardini rispondono a questo tema? No. Quelli nelle casette dei Giardini, siccome nei padiglioni nazionali ognuno fa quello che gli pare. Ed è ogni nazione, perché loro sono proprietari di quei padiglioncini, ogni nazione decide. Quindi chi d'inverno invitare. Vanno a farci le vacanze? Probabilmente sì, no, comunque fanno anche altre cose all'interno di quei padiglioni. E ogni nazione decide che cosa fare con il proprio padiglione, indipendentemente da quello che è la curatela della Biennale. E quindi solitamente si può trovare tanto un artista, una personale, quanto una collettiva. Sì, esattamente. Il padiglione tedesco è stato il primo ad avere un artista straniero a rappresentare la Germania all'interno della Biennale. E che da dove veniva sto? Dall'Inghilterra, se non sbaglio, il primo. Dopodiché è sempre successo spesso che ci fossero delle collettive con anche degli stranieri. Altra domanda. Quelli che quindi non hanno la casetta e i Giardini si prendono delle altre location in città che sono comunque nel circuito della Biennale. Cioè, nel circuito della Biennale. Sì, che sono padiglioni nazionali, perché dal 1999 i padiglioni nazionali sono in costante crescita e continuano a crescere di numero. E poi cosa succede? Oltre a questi ci sono eventi collaterali che sono connessi alla Biennale, nel senso che li trovi all'interno del catalogo della Biennale, perché sono parte della Biennale malgrado siano mostre esterne, e ancora altri eventi collaterali sempre che hanno a che fare con la Biennale, ma che sono fuori dal catalogo, nel senso che sono fuori dalla curatela generale del... E poi eventi che sono lì perché a Venezia c'è la Biennale. Ad esempio le gallerie più importanti che fanno le loro cose. Esatto. E nella gestione dell'arte, dei padiglioni internazionali, c'è un ente statale oppure anche lì è... Dipende da paese a paese, ovvero ogni paese, per esempio adesso so che la Polonia ha una sorta di Arts Council polacco che è composto da una commissione che decide ogni 2 anni si riunisce per decidere chi sarà l'artista partecipante e chi sarà il curatore che curerà il padiglione. Lo stesso vale per la Grecia, per esempio, ma credo per quasi tutti i padiglioni. Altri paesi, diciamo che sono i paesi corrotti, un po' come l'Italia, hanno metodi un po' più corrotti per far succedere queste cose. Non vogliamo svelare le corruzioni del nostro amato paese. No, né del nostro amato paese, ma neanche di altri paesi corruttibili, insomma, perché come tu ben sai, chiunque ha un prezzo, per cui se tu sei disposto a pagare abbastanza puoi eventualmente esporre all'interno di un padiglione della Biennale. Senti, volevo chiederti un'altra cosa. Un artista che espone in un padiglione internazionale, sì, ha interesse a esporre anche in una personale una retrospettiva in uno spazio privato? Nello stesso periodo? Sì. Bah, sia sì che no, dipende, insomma dipende molto dal progetto. Diciamo che qui comunque siamo a un livello piuttosto alto, per cui tendenzialmente io direi che non avrebbe molto senso fare una cosa del genere se sei già in uno dei padiglioni nazionali. Se invece magari sei all'interno della mostra curata dal curatore della Biennale, forse ha più senso, perché ma tu comunque considera che teoricamente è tutto no profit, nel senso che è una mostra museale, per cui i lavori non sono in vendita teoricamente, poi naturalmente in pratica è tutto un altro discorso, ma sono altre dinamiche che non vogliamo esattamente svelare troppo. Va bene, io direi che l'interrogatorio al dottor Pasquini, così come non vogliamo svelare troppo il rapporto tra pubblico e privato all'interno di tutta la struttura biennalistica, ma anche all'interno di tutto il sistema dell'arte, perché effettivamente alla fine sono sempre i privati che finanziano la produzione del lavoro, anche quando lo vediamo in un museo o in una biennale. E naturalmente non si fa niente per niente, no? E allora io direi di continuare così. Continuiamo così. E, ovvero svelando ai nostri ascoltatori di cosa si occuperà questa puntata del Coxo, di cosa si sta occupando. Vado? Vadi. Arte contemporanea. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Riccardo Lolli è un uomo meraviglioso. Ti registro e ti metti una canzone. No, Riccardo Lolli è un uomo meraviglioso, anche se io non lo conosco, è la prima volta che lo vedo. Cavolo, non so chi sei, mi dispiace. Non è la verità, cosa devo fare? Era sei andata via, è andata via. O avete solo 3 minuti, Riccardo Lolli è un uomo meraviglioso. Riccardo Lolli è un uomo meraviglioso. Riccardo Lolli è un uomo meraviglioso. Riccardo Lolli è un uomo straordinario. Fai come vuoi, ti autorizzo, non voglio niente. Ecco qua, Riccardo Lolli. Le nome meravigliose. Le nome di Sicilia. Si può. Però mi guarderete sulla mia. No, non dolce, ma vi ho detto la verità. Io no, su quello, visto che mi hanno detto anche che faccio. Io sono serio, io ero serio su questo. Riccardo Lolli è un uomo fortunato. Sono le 10:10. Vi saluto, ci vediamo sul mio profilo fra qualche giorno. Potete benissimo chiedermi l'amicizia e guardare sul profilo, è una diretta uguale. Grazie a tutti, vado a vedere Montalbano, Quinta Colonna e altro. Già finito? Ciao. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Da un po' di tempo a questa parte qualsiasi cosa mi viene in mente, prima o poi finisce in pancia. Che sia commestibile o solo assaggiabile, una voracità atavica si è impossessata dei miei vidi. Sarà la primavera, o forse questo tempo così scostante che crea confusione tra le folle e tra le foglie. Il messenger mi ricorda che ci sono 32 messaggi da controllare. Io intanto continuo a pensare alla pizza del chioschetto di fronte a casa. Mangerei sia la pizza che la pizzaiola, non necessariamente in questo ordine. Sì, penso che sia proprio la primavera, quando i pollini si alzano leggeri nell'aria, gli amori riscaldano passioni sopite perfino nel cuore duro di Pasquini, e Bassano del Grappa torna a punteggiarsi di colori più tenui, un po' inadeguati forse, perché se è vero che una rondine non fa primavera, è anche verosimile che un lilla chiaro non fa un bel paesaggio. Mezzali blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, bl coxo spaziali. Autopromotech, la più specializzata rassegna internazionale per rendere ogni sorriso ancora più bello. Ciao Stefano. Ciao Feda, sei stavo mi ero distratto a leggere qualcosa che ha a che fare con l'XM24, che non avevo capito se poi sarebbe stato fatto o no. Quella della quella che leggiamo dopo? Sì. Lo so, perché tu ci tieni a quelle cose là. Certo. E quindi, visto che abbiamo un sacco di contenuti questa sera, io direi di cominciare senza perdere tempo con l'angolo della menzione. Ho fatto bene? Hai fatto benissimo. E allora andiamo con la prima. Sabato 15 alle 20:30, Kaspar Hausen a El Garaje. Spero di aver pronunciato bene. Mm-hmm. Cinque momenti evocati dal suono che vanno dall'arrivo di Kaspar. Arrivo? Di Kaspar, arrivo a Norimberga. Fino alla sua morte. Mm. Leggilo tu. Una morte non solo fisica, ma anche della sua diversità. Entrando in contatto col mondo ed imparando a comunicare come tutti, la sua essenza originaria pian piano si perde. Inizia a parlare, primo progetto del collettivo Pubblica Illuminazione. E sai che abbiamo in linea noi? Sì. Sempre che non abbia riagganciato. Io lo so. Lo diciamo anche a chi ci ascolta? Diciamoglielo. Che dici, Miguel? Glielo diciamo? Assolutamente sì. Ok, abbiamo Miguel di El Garaje. Perché El Garaje Produzione. Esatto, che è questo spazio che ha trovato che ha sede ad Oz e che si occupa di produzioni audiovisive e non solo. In particolare Noi insieme all'inizio nel 2012 a Planimetri Culturali abbiamo ripristinato uno spazio facente parte della Stampo Tenzing a Stalingrado 59, che si chiamava Senza Filtro qualche tempo fa, perché è maturata poi di notte, di fatto diciamo una migrazione di contratto da Planimetri Culturali a Eden, una associazione culturale che pratica sport affiliata ai CF. Questo diciamo ha creato una nuova struttura, ma avvicinato magari un po' più di gruppi sportivi, ha riassettato sicuramente lo spazio. Noi diciamo siamo quelli dell'area culturale e sopravvissuti diciamo un po' di cambiamenti. Sì, certo. Un nuovo equilibrio con Eden e noi abbiamo ripristinato una parte del vecchio magazzino, 300 metri quadrati, con l'aiuto di amici artigiani, e ha raccolto un po' di fondi nelle tasche, nelle nostre sette tasche diciamo. E abbiamo messo diciamo a posto, ripristinato appunto il vecchio magazzino, che sono 300 metri quadrati e si affacciano nel cortile posteriore della Stampo Tenzing. Infatti la nostra entrata diciamo di servizio è quella di via Calzoni 2, uh-huh, fianco al Kindergarten, per chi conosce, con un comodo parcheggio. Giusto. Senti Miguel, tra l'altro la grande bella novità è che dopo diverso tempo, perché ricordo che è un po' che me ne parlavi, da domani capita che per la prima volta userete il vostro spazio per un allestimento teatrale. Sì, esatto, noi in verità siamo un collettivo nato dallo spettacolo cinema, essenzialmente cinema e video. Siamo macchinisti, elettricisti, c'è qualche ragazzo che lavora in produzione, c'è qualcuno che si avvicina, cresce con noi professionalmente, però noi abbiamo un piccolo service, due furgoni che si dedicano alla produzione cinematografica. Però da molto tempo avevamo già parlato con te, avevamo pensato di poter trasformare questo spazio in teatro di posa, un limbo, cioè quella curva di MDF di legno che dà diciamo l'impressione di un infinito quando riprendiamo, perché è tutto green screen, poi tutto verde, di poter trasformarlo in uno spazio diverso, cioè dove non solo avvenisse riprese, ma provare a riempire di contenuti diversi. Adesso questo collettivo di domani è il primo che si è in qualche maniera avvicinato con un progetto concreto, giovane, perciò ci ha subito colpiti. E abbiamo deciso di ospitarlo, abbiamo deciso di ospitare le prove, di mettere in campo qualche nostra professionalità, facciamo un ragazzo, un tecnico luci, le nostre luci, insieme a loro capire come trasformare quello spazio, che è stato molto divertente e molto stimolante. I ragazzi hanno portato tantissima energia e sicuramente domani per noi sarà un grandissimo piacere ospitarli, vedere il nostro spazio trasformato, trasformate in uno spazio dove arriva un pubblico e dove succeda qualcos'altro rispetto a quello che noi solitamente vediamo accadere. E infatti, speriamo che sia l'unica volta. E speriamo che sia l'inizio di molte altre possibilità di festival con l'arrivo del caldo, quando mai smetterà di piovere. E teneteci aggiornati. Noi intanto ci vedremo domani. Dai, perfetto. Grazie Miguel, buon lavoro. Un abbraccione a tutti. Ciao, ciao Miguel. Ciao. E invece da venerdì 12 a domenica 14 dalle 17 Ole Festival all'XM24. Ma ti rendi conto che ho sbagliato anche a mettere il 12 da prima dopo il 14? Cioè, ah cavolo, hai ragione, proprio... questo era il 15, vabbè così. Cioè, io posso andare a faccia al muro per no, favore. Io più che altro, guarda, l'ho imparato da te adesso e devo dire che mi dispiace perché domani devo andare un'altra biennale. Devo andare alla Biennale di Monza e non riesco a, e torno domenica e non riesco a vedere questo festival che è una 3 giorni di autoproduzione, di editoria indipendente, workshop, mostra, incontri e musica. Ma sai cosa facciamo? Ci vado io e poi te la racconto. Eh sì, perché ci dovevo essere anch'io come produttore, soltanto che sapevo che ci sarebbe stata la Biennale di Monza, ah, e avrei fatto fatica, per cui ti avevano contattato, obsolete shit. Oh yeah, hell yeah. Comunque domani scoprirete dove, con l'evento di Facebook, il link lo troverete su www.coxospaziale.blogspot.com. Invece se volete messaggiarci adesso 333 180 94 94, però fatelo subito perché adesso partiamo con appunto, dopo la prossima menzione abbiamo, ci saranno anche, 11 minuti di contenuto, mm-hmm, che lì ci sveli i giardini della Biennale. Vi svelo anche un po' di giardini della Biennale, non tutti, mm-hmm, ma poi ci dici quello che ti è piaciuto di più. Andiamo avanti, va bene. Allora, l'ho già fatto lo stacchetto. Domenica 24 ore 21, Lettere dalla notte, Teatro Alice Zeppilli, Pieve di Cento. Lettere dalla notte sono state scritte da Nelly Shucks. Ho detto bene? No, Lettere dalla notte è stato scritto da Nelly Shucks, una delle voci più poetiche, più appartate e potenti del Novecento, ed ora riscoperta da Chiara Guidi in collaborazione con Elena Di Gioia. Ai ai ai. L'ha detto giusto Elena Di Gioia? Sì, l'ha detto giustissimo. Luna calante in Scorpione dalle 14 di ieri, giovedì 11 maggio, fino a domenica 14 alle ore 5. Studiare il potere dell'anima e del nostro corpo che trasmuta. Pensare all'arte e alla musica come rivoltare la pelle, il corpo, da dentro, bucato. Pulire il bagno. L'amore. Adesso sono nel padiglione cinese, dove in una sorta di super installazione chiamata What's the Sea? Che cos'è il mare? Tang Nannan ha invitato dei bambini di tutto il mondo a dipingere la loro visione del mare, e non solo, anche noi siamo appunto invitati. C'è un tavolone con carta di riso e pennelli tradizionali cinesi, anche noi siamo invitati a dipingere il mare. Devo dire che il padiglione cinese, malgrado sia molto pieno di molti lavori di tanti artisti, è una sorta di padiglione delle meraviglie, molto, molto interessante. Sarà che sono appena stato a Shanghai, ma devo dire che mi affascina molto questa, e anche il loro rapporto tra la cultura tradizionale e la modernità, diciamo, e la contemporaneità. Devo dire che sarà che sono appunto molto esotici, ma lo trovo uno dei padiglioni più interessanti che ho visto fino ad ora. Siamo con Lucia Spadaro della rivista Segno e ho solo una domanda per lei: che cos'è stata la cosa che ti è piaciuta di più finora, di quello che hai visto finora? Ecco, appunto, non ho ancora completato il giro. Sei troppo diplomatica, come al solito. No, davvero non l'ho completato. Padiglione Italia, l'hai visto? Come ti è sembrato? Forte il lavoro di cuochi, no? No. Ottimo lavoro. Però il padiglione in sé, magari gli altri due lavori. Qualcosa di più eccitante, diciamo. Mettiamola così. Ok. altro però, di no, particolarmente però a livello generale dai, è una bella biennale. No, assolutamente. Un'energia che non si vedeva da parecchio tempo. Ah, questo è interessante. Io trovo, okay. Sì, io l'ho trovata molti, un po' decorativa invece. Ma sì, ma molti nomi giovani finalmente, certo. Molto cioè, fresca. C'è una sì. Io ti dico. Bene, mi fa piacere. Grazie mille. L'artista Vanessa Chimera, giustamente venendo da New York, dice: ma che cazzo di freddo fa per essere maggio? Ed effettivamente fa freddo. Qua siamo entrati al padiglione Italia dei giardini e c'è una performance sonora. Ammetto di non sapere chi è l'artista perché non ci sono ancora bollini attaccati da nessuna parte, no, intendo etichette. Però l'atmosfera è caotica ma divertente, molto rilassata, devo dire, questa biennale. Devo dire che la parte del Padiglione Italia, cioè la parte di Viva Arte Viva al Padiglione Italia è piuttosto confusa, nel senso che c'è un sacco di lavoro e anche un po' di revival, eccetera, e atmosfera rilassata, ma francamente si fa un po' fatica a capire il nesso tra quello visto all'Arsenale e quello che invece c'è qui. Dovrò rileggermi il comunicato stampa e quanto racconta la curatrice per avere una idea un po' più precisa di quello che mi è davanti. Eccomi che finalmente sono tornato a casa in questo calore estivo, oppure no, calore estivo, in questo freddo estivo, calore invernale appena grandinato qui a Zola Predosa. Dicevo, finalmente sono riuscito a leggermi con calma l'introduzione alla Biennale, scritto appunto di suo pugno da Christine Massel, che è la curatrice, che appunto racconta come l'arte di oggi, di fronte ai conflitti, ai sussulti del mondo, testimonia la parte più preziosa dell'umanità in un momento in cui l'umanesimo è messo in pericolo. Essa è il luogo per eccellenza della riflessione, dell'espressione individuale e della libertà, così come sono gli interrogativi fondamentali, sogni, utopie, relazioni con l'altro e gli altri, legami con la natura e con il cosmo, oltre che a una dimensione spirituale, trovano nell'arte il loro spazio di predilezione. In ciò l'arte è l'ultimo baluardo, un giardino da coltivare al di là delle mode e degli interessi specifici, e rappresenta anche un'alternativa all'individualismo e all'indifferenza. L'arte ci costruisce ed edifica. È un sì alla vita, certamente, spesso seguito da un ma in un momento di disordine globale. Più che mai il ruolo, la voce, la responsabilità dell'artista appaiono dunque cruciali nell'insieme nei dibattiti contemporanei. È grazie all'individualità che si disegna il mondo di domani, un mondo dai contorni incerti, di cui gli artisti, meglio degli altri, intuiscono la direzione. Ecco, devo dire che dopo aver letto tutto do un po' ragione a questo giornalista di Freeze, Evan Moffitt, che prima di tutto confronta la biennale attuale con quella di 2 anni fa, quella di Okui Envesor, che è un curatore impossibile da pronunciare, ma che appunto era molto più politica ed era molto più in your face, ti faceva il titolo era All the World's Future, tutti i futuri del mondo, e ti faceva vedere ti ha fatto prevedere Trump, eccetera, e molte altre cose, e appunto il nostro anzi un articolo che, se leggete l'inglese, vi consiglio di andare a cercare su freeze.com. Freeze è la rivista inglese di arte contemporanea, una rivista molto importante, e il nostro Ewan Moffitt finisce dicendo appunto come forse il tempismo non è stato fantastico né per Christine Marcel né per il curatore precedente, dicendo e finisce in questo modo, dice, cercando di scappare la politica, Marcel ha ignorato il fatto che qualunque estetica, decisione estetica, è in itself, è in esso stesso un atto politico, e cerca di appianare tutte le texture ruvide, scomode di lavori che sarebbero stati, diciamo, avrebbero parlato in maniera più ampia se fossero stati in un contesto diverso, se fossero stati in una mostra diversa. Come risultato, Viva Arte Viva è molto pretty, è molto graziosa, ma manca di spessore, come una sorta di calma finta nell'occhio del ciclone. Questo è direi che mi trova completamente d'accordo, perché fondamentalmente una delle cose che mi ha disturbato di più in assoluto di questa biennale è stata la sua spettacolarizzazione, il che è normale, perché comunque quando un artista è chiamata alla biennale, soprattutto se quell'artista ha una galleria molto grossa dietro, la tendenza è quella di strafare, di spendere un sacco di soldi, di far vedere che la galleria è potente, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il discorso è molto economico e poco di contenuto. Detto questo, appunto, ci sono un sacco di bei lavori preziosi, ma secondo me manca soprattutto una linea curatoriale precisa. Cioè non basta dire sì, l'arte è quello che comunque rende prezioso l'uomo. Secondo me sì, non è un discorso che basta. Effettivamente, e ne parlavo con Fabio Cavallucci, il direttore del Pecci di Prato, non tanto tempo fa, effettivamente se dessero a me o a lui o ai nostri amici curatori una biennale da curare, sarebbe una discreta gatta da pelare. Non che daranno mai una biennale a me, forse, se va bene, anzi me lo auguro, la daranno a Fabio Cavallucci prima o poi, ma è una discreta gatta da pelare, soprattutto per il fatto che ormai ci si aspetta 200 artisti, 2000 metri quadri di padiglioni, eccetera. Sicuramente questa è una biennale da non mancare, è una biennale da assolutamente da andare a vedere, è aperta fino alla fine di novembre, anche se il prezzo dell'ingresso diciamo che potrebbe essere leggermente più basso di quanto uno si possa aspettare. Venezia rimane la capitale dell'arte per almeno due settimane nel mondo, la Biennale di Venezia rimane la biennale più importante che c'è al mondo, per cui è da non mancare. Sicuramente ci vorrebbero almeno 3 giorni per visitarla, cosa che a me non è stato possibile. Spero di poterci tornare la settimana prossima e magari darvi qualche altro input. E continuiamo con Corso Spaziale. Stai ascoltando Coxo Spaziale. che sono sempre io. Scusate se sono stato un po' prolisso. E mi avevi detto che finiva con la musica, però tu ci parlavi sopra, scusami. E sì, poi, certo, con una poi musica bellissimo, perché questo Stefano Pasquini qua è sparito per 2 mesi, torna e fa una puntata in cui lui è dal vivo, esatto. su Facebook registrato, manca solo che ti faccio la telefonica e poi potresti farmi una allora telefonica. Ti chiamo intanto che ascoltiamo un altro contributo? Piccolissimissimo. Vai. È un contributo di 2 minuti che contiene la voce di un grande dell'origine del Cox. Vedi se riesci a tradurre in simultanea quello che non è traduciato. O se no faccio io con. E indovinate che abbiamo incontrato Pablo Elguera, artista famosissimo che vive a New York e che ieri ha inaugurato una mostra qui vicino nella Fondazione Bach. Fondazione Bach, com'è andata? È una fondazione russa che si centra nella can I say it in English? Yes, of course, I can translate. It's an exhibition inspired on the centennial of the Russian Revolution. Centenario della rivoluzione russa. Too deep for Coxo Spaziale. Troppo profondo per Coxo Spaziale. It's a really interesting exhibition with Russian contemporary and modern Russian artists. So you have Rodchenko and Malevich. Che sarà è un'esposizione, ma lui quindi curava, non faceva contemporary artists. No, no, c'è anche lui. And we are doing I'm doing a collaboration with another Russian artist. Sta facendo una collaborazione con un'altra artista russo. Who actually he was exiled to Mexico. Che è stato in esilio in Mexico. No, era Trotsky che è stato esiliato in Mexico. Famous story. La mostra è su Trotsky. Ah, ok. E Trotsky stava nella casa di questo ottico italiano. Adesso dice il nome perché non mi ricordo. The house where Trotsky lived in Mexico City used to be an optical research center. Oh yes, of course. I read the press release that you sent me. Yes. So it was founded in fact by an Italian immigrant, Antonio Turati, who was the founder of the optical research in Mexico. Wow. So we invented this optics shop called Optica Bronstein. Bronstein was the original name of Trotsky, the birth name of Trotsky. Oh, okay. Yeah. Trotsky and we do Westminster optical tests. Oh, wow. But they're tests of our political vision. Excellent. Well, so, and qui tu vai e ti fanno un test, ma non it's optico, ma politico. Oh, hai detto another wow. Aspetta che lo traduco anche. Space Force Construction. Spazio per la costruzione. Space Force Construction. E sta su fino ad agosto, per cui avremo il tempo di guardarla con calma e magari riparlarne. Grazie mille, Pablo. Grazie, e naturalmente ti saluto, Fedra. Grazie, igualmente. Egualmente. Che carino Pablo, mi ha fatto piacere vedere. La cosa che mi ha sconvolto di più è questa la traduzione simultanea coxica, che è meravigliosa. Sì, direi che secondo me non ha capito niente nessuno. comunque su www.coxospaziale.blogspot.com vi manderemo, troverete il link per la Bach Foundation. Infatti io ho capito Bach perché of course lui è messicano, per cui ha detto Bach e non lo trovavo, invece Vac, VAVAC.ru. Dunque? Dunque cosa? Cosa si fa? Cosa si fa? Della gran no, non lo so, dimmi tu. Sì. Abbiamo finito questo speciale Biennale di Venezia. Adesso forse lunedì ci torno e poi però dubito che riuscirò a fare un'altra. Ma se ci torni porti anche me. Ma potrei anche portare anche te effettivamente. Vabbè, allora io intanto metto su questo brano cinese. Dai. Si chiama, non mi ricordo più. Mock qualcosa. Sara Mock. Karen Mock. Che comincia un po' mansueto così. Ma forse anche basso. Tiro su tutto allora. Tiro su tutto. Poi magari ci parliamo un po' sopra. Fa un po' parrucchieri. In tien, zai bu kai deng de fang jian, dang suo yu zi xu, yi dian yi dian chen dian. Fa molto manga giapponese secondo me. Sì, anche centro benessere. Sì. È discretamente gnocca la Karen Mock. Secondo te perché l'ho scelta? Perché la vocina è un po' così. Certo. Ma mi piacciono molto le schitarrate, ti sto bene. non so, forse l'ho sentita in un taxi a Shanghai e l'ho shazammata. Vabbè, poi per concludere ti faccio sentire il brano che avevo scelto io per concludere questo Cox. Ah, ecco, mi sembra un'ottima idea. Sulle note della mock, se riesco ad abbassarle le giuste. Ma io sono contentissima di questa 182esima puntata del Coxo, perché è riuscita nonostante me. Ce l'abbiamo fatta fino alla fine, non è esploso nulla nonostante. Ma tu sei una professionista. Ma c'era qualche errore che potevo fare, che non, cioè, li ho fatti tutti. No, volevo dire che questo che avevo letto prima era un. Non l'avevi letto tu, eh? L'avevo. Ah no, è vero, non l'ho letto io. L'ha letto Google Translate. Pulire il bagno, annaffiare. Fare l'amore. Sono consigli. Questo, esatto, sono consigli che vengono da Monica P. Brain Quoghi, che trovate su Facebook se la cercate. E lei tutte le volte che c'è un cambiamento di luna, interpreta, diciamo, quello che la luna ci consiglia di fare. E sono dei post meravigliosi. È una delle cose più belle che c'è su Facebook. Infatti, effettivamente potremmo chiamarla. Potremmo chiamarla a raccontarci come nascono queste cose, perché come nascono, avrà fatto delle ricerche. È interessante, no? Cioè, voglio dire, come fa a sapere che la luna ci dice di pulire il bagno? No, ma quindi no? Dai, rilagici quello che vale dal 14 al 16. Da ieri alle 14 fino a domenica 14 alle 5 di mattina, per cui probabilmente domenica mattina ne posterà un altro, e dice: studiare il potere dell'anima e del nostro corpo che trasmuta, pensare all'arte e alla musica come rivoltare la pelle, il corpo da dentro. Cioè, pensare all'arte e alla musica come rivoltare la pelle. Mm-hmm. Un po' anni 90. Bucato, pulire il bagno, annaffiare, fare l'amore. E invece la settimana prima c'erano altre cose, cioè ogni cambio di luna ci sono delle cose. Vabbè, adesso però, delle cose interessanti. Adesso però, visto che abbiamo un messaggino. Come un messaggino? No, non è vero, è una curiosità mia. Ah. Ma che cos'è che ti è piaciuto di più di tutto quello che hai visto a Venezia? Di tutto quello che ho visto? I miei colleghi allora, anti-establishment mi uccideranno. Allora, ma facciamo obiettivamente, così, ti telefono e fai una voce finta. Obiettivamente l'installazione di Roberto Quoghi, devo dire che è veramente un potente. Italiano? Sì. E dov'era? Sì, al Padiglione Italia. Non hai ascoltato quello che ho detto, visto? No, ma io oggi sono disconnessa, guarda, oggi sono molto disconnessa. E niente, perché? Perché è potente, perché vedere questa sorta di fabbrica di Cristi che poi però diventano degli extraterrestri che si sciolgono e poi ammuffiscono, però poi non è tutto sterile, non c'è puzza, ci sono questi frigoriferi, è inquietante, sembra di essere dentro, non so, tu hai mai visto su YouTube il video di Roswell di quando trovano questi extraterrestri e li sezionano e c'è questa, il video in bianco e nero, però loro sono degli extraterrestri reali, cioè sembrano reali, loro li sezionano, quando aprono c'è tutta questa cartilagine, è un po' impressionante perché sembra finto, ma è anche un po' vero, è un po' strano. E questo un po' invece la più l'iperrealismo anni 2000 applicato a qualcosa di non reale. Sì, no, però quello che funzionava lì dentro, vabbè, a parte il fatto che era murato di gente, per cui non c'era un momento spirituale, però quello che funzionava lì dentro era il fatto che non c'era spettacolarizzazione, mentre invece quasi dappertutto per il resto della Biennale era veramente Disneyland. Ciao. Avete ascoltato Coxo Spaziale numero 182. Anche questa l'ho detta male. Speciale Biennale di Venezia. Perché invece la settimana prossima facciamo quello speciale Biennale di Monza, che inaugura domani alle 11 venite a Monza. La settimana magari facciamo una menzione. La settimana prossima parla di cinema d'autore con regista, attore e qualche telefonica. Allora sto a casa. Non sai cosa ti perdi. E comunque sono dei discreti gnocchi. Ah, allora vengo.